partenza. Credo, anzi ne sono sicuro, che questo renderà più facili i rapporti. Ho detto al Presidente che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato.